Ad alta voce, Elio De Capitani legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Improvvisamente, come uno scoppio in quel mondo di incoscienza felice, giunse la notizia del ritorno di Gaston. Aureliano e Amaranta Ursula aprirono gli occhi, sondarono le loro anime, si guardarono in faccia con la mano sul cuore e compresero che erano così identificati da preferire la morte alla separazione. Allora lei scrisse al marito una lettera di verità contraddittorie nella quale gli reiterava il suo amore e la sua impazienza di rivederlo e, nello stesso tempo, ammetteva come un disegno del fato l'impossibilità di vivere senza Aureliano. Al contrario di ciò che entrambi si aspettavano, Gaston mandò loro una risposta tranquilla, quasi paterna, con due fogli interi consacrati a prevenirli contro le velleità della passione e un paragrafo finale con auguri inequivocabili di tanta felicità quanta ne aveva avuta lui nella sua breve esperienza coniugale. Era un comportamento così imprevisto che Amaranta Ursula si sentì umiliata all'idea di aver offerto al marito il pretesto che lui desiderava per abbandonarla al suo destino. Il rancore le aumentò 6 mesi dopo, quando Gaston le scrisse di nuovo da Leopoldville, dove finalmente aveva ricevuto l'aeroplano, solo per pregarla di mandarle il velocipede, che di tutto ciò che aveva lasciato a Macondo era l'unica cosa che conservava per lui un valore sentimentale. Aureliano sopportò con pazienza il risentimento di Amaranta Ursula, si sforzò di dimostrarle che poteva essere un buon marito sia nella buona che nella cattiva sorte, e le necessità quotidiane che li assediavano quando finirono gli ultimi soldi di Gaston crearono tra loro un vincolo di solidarietà che non era proprio abbagliante e inebriante come la passione, ma che gli servì per amarsi tanto ed essere tanto felici quanto lo erano stati nei primi tempi turbolenti della Sala Città. Quando morì Pilar Ternera, stavano aspettando un bambino. Nel sopore della gravidanza, Amaranta Ursula cercò di organizzare una industria di collane di vertebre di pesci, ma a eccezione di Mercedes, che gliene comprò una dozzina, non trovò a chi venderle. Aureliano fu consapevole per la prima volta che le sue doti di linguista, la sua sapienza enciclopedica, la sua rara facoltà di ricordare senza conoscerli i dettagli di fatti e luoghi remoti erano inutili, quanto lo scrigno di pietre preziose di sua moglie, che in quell'epoca doveva valere tanto quanto tutto il denaro di cui avrebbero potuto disporre insieme gli ultimi abitanti di Macondo. Sopravvivevano per miracolo. Benché Amaranta Ursula non perdesse il buon umore nella sua ingegnosità per le mattane erotiche, prese l'abitudine di sedersi nel porticato dopo pranzo in una specie di siesta insonne e pensierosa. Aureliano le faceva compagnia. Certe volte rimanevano in silenzio fino al calar della sera, l'uno davanti all'altra guardandosi negli occhi, amandosi nella serenità con tanto amore quanto prima si erano amati nello scandalo. L'incertezza del futuro li portò a rivolgere il cuore verso il passato. Si videro nel paradiso perduto del diluvio, intenti a sguazzare nei pantani del patio, a uccidere lucertoline per appenderle a Ursula, a giocare a seppellirla viva, e quelle rievocazioni rivelarono la verità, che erano stati felici insieme fin da quando se ne potevano ricordare. Scandagliando nel passato, Amaranta Ursula si ricordò del pomeriggio in cui era entrata nel laboratorio di oreficeria e sua madre le aveva raccontato che il piccolo Aureliano non era figlio di nessuno perché era stato trovato in un cestino galleggiante del fiume. Benché la versione sembrasse loro inverosimile, non avevano altre fonti di informazione per sostituirla con la verità. erano sicuri di un'unica cosa, dopo aver esaminato tutte le possibilità, e cioè che Fernanda non era la madre di Aureliano. Amaranta Ursula era propensa a credere che fosse figlio di Petra Cotes, della quale ricordava soltanto storie infamanti, e quella supposizione le produsse nell'animo una stretta d'orrore. Tormentato dalla certezza d'essere fratello di sua moglie, Aureliano fece una scappata nella casa parrocchiale per cercare negli archivi trasudanti e tarmati qualche traccia sicura della sua filiazione. L'atto di battesimo più antico che trovò era quello di Amaranta Buendia, battezzata nell'adolescenza da padre Nicanor Reina, nell'epoca in cui questi andava cercando di provare l'esistenza di Dio con artifici di cioccolata. Giunse a illudersi della possibilità di essere uno dei 17 Aureliani, i cui atti di nascita rintracciò attraverso 4 tomi, ma le date di battesimo erano troppo remote per la sua età. Vedendolo sperduto in labirinti di sangue, tremante di incertezza, il parroco artritico che lo osservava dall'amaca gli chiese compassionevolmente come si chiamasse. «Aureliano Buendia», disse lui. «Allora non affannarti a cercare», esclamò il parroco con una convinzione risolutiva. Molti anni fa c'era una strada che si chiamava così. A quei tempi la gente aveva l'abitudine di dare ai bambini i nomi delle strade. Aureliano tremò di rabbia. «Ah!» disse. «Allora non ci crede nemmeno lei!» «A che cosa?» «Che il colonnello Aureliano Buendia ha fatto 32 guerre civili e le ha perse tutte», rispose Aureliano. «Che l'esercito ha asserragliato e mitragliato 3.000 lavoratori e che si sono portati via i cadaveri per gettarli in mare in un treno di 200 vagoni». Il parroco lo misurò con uno sguardo di compassione. «Ai, figlio mio», sospirò, «a me basterebbe essere sicuro che tu ed io esistiamo in questo momento». Di modo che Aureliano e Amaranta Ursula accettarono la versione del cestino non perché vi credessero, ma perché ciò li metteva in salvo dai loro terrori. A mano che avanzava la gravidanza si andavano convertendo in un essere unico. Si integravano sempre di più nella solitudine di una casa a cui mancava soltanto un ultimo soffio per rovinare. Si erano ridotti a uno spazio essenziale dalla stanza di Fernanda, dove intravidero i fascini dell'amore sedentario. All'inizio della galleria, dove Amaranta Ursula si sedeva a confezionare scarpette e cuffiette di neonato e Aureliano a rispondere alle lettere occasionali del sabio catalano, il resto della casa si arrese all'assedio tenace della distruzione. Il laboratorio di oreficeria, la stanza di Melchiades, i regni primitivi e silenziosi di Santa Sofia della Pietad rimasero nel fondo di una selva domestica che nessuno avrebbe avuto la temerarietà di sviscerare. Attorniati dalla voracità della natura, Aureliano e Amaranta Ursula continuavano a coltivare l'origano e le begonie e difendevano il loro mondo con demarcazioni di calce, costruendo le ultime trincee della guerra immemorabile tra l'uomo e le formiche. I capelli lunghi e non curati, i lividi che le spuntavano sulla faccia, il gonfiore delle gambe, la deformazione dell'antico e amoroso corpo di donnola avevano cambiato ad Amaranta Ursula l'aspetto giovanile di quando era entrata nella casa con la gabbia di canarini sfortunati e col marito tenuto al guinzaglio. Ma non le alteravano la vivacità dello spirito. «Merda!» usava ridere. «Chi avrebbe pensato che davvero avremmo finito per vivere come antropofagi?» L'ultimo filo che li vincolava al mondo si ruppe nel sesto mese di gravidanza, quando ricevettero una lettera che evidentemente non era del sabio catalano. Era stata imbucata a Barcellona, ma l'indirizzo era stato scritto con l'inchiostro azzurro convenzionale da una calligrafia amministrativa e aveva l'aspetto innocente e impersonale dei messaggi ostili. Aureliano la strappò dalle mani di Amaranta Ursula mentre questa si accingeva ad aprirla. Questa no, le disse, non voglio sapere cosa c'è scritto. Proprio come aveva previsto, il sabio catalano non tornò a scrivere. La carta estranea che nessuno lesse restò alla merce delle tarme sullo scaffale dove Fernanda aveva dimenticato una volta il suo anello matrimoniale e lì rimase a consumarsi nel fuoco interiore della sua cattiva notizia, mentre gli amanti solitari navigavano nella corrente di quei tempi postremi, tempi impenitenti e infausti, che si logoravano nell'ostinazione inutile di farle deviare verso il deserto del disincanto e dell'oblio. Coscienti di quella minaccia, Aureliano e Amaranta Ursula passarono gli ultimi mesi con la mano nella mano, terminando con amori di lealtà il figlio iniziato con sfrenatezze di fornicazione. Di notte, abbracciati nel letto, non li spaventavano le esplosioni sublunari delle formiche, né il fragore delle tarme, né il sibilo costante e nitido della crescita dello sterpeto nelle stanze vicine. Molte volte furono svegliati dal traffico dei morti. Udirono Ursula, che litigava con le leggi della creazione per preservare la stirpe, e José Aureliano Bendia, che cercava la verità chimerica delle grandi invenzioni, e Fernanda che pregava, e il colonnello Aureliano Bendia che si abbruttiva con inganni di guerra e pesciolini d'oro, e Aureliano II che agonizzava di solitudine nello stordimento dei bagordi. E allora impararono che le ossessioni dominanti prevalgono contro la morte e tornarono ad essere felici nella certezza che essi avrebbero continuato ad amarsi con le loro nature di apparizioni molto tempo dopo che altre specie di animali futuri carpissero agli insetti il paradiso di miseria che gli insetti stavano finendo di carpire agli uomini. Una domenica alle 6 del pomeriggio Amaranta Ursula sentì i dolori del parto. La sorridente mammana delle ragazzine che facevano all'amore per fame la fece salire sul tavolo da pranzo. Le si mise cavalcioni sul ventre e la maltrattò con colpi bestiali finché le sue urla furono chetate dai vagiti di un maschio formidabile. Attraverso le lacrime Amaranta Ursula vide che era un Buendía di quelli grandi, massiccio e caparbio come i José Arcadio, con gli occhi aperti e chiaroveggenti degli Aureliani, e predisposto a cominciare di nuovo la stirpe dal principio e a purificarla dai suoi vizi perniciosi e dalla sua vocazione solitaria, perché era l'unico in un secolo ad essere stato generato con amore. Tutto un antropofago, disse. Si chiamerà Rodrigo. No, la contraddisse suo marito. Si chiamerà Aureliano e vincerà 32 guerre. Dopo avergli tagliato l'ombelico, la mammana cominciò a togliergli con uno straccio l'unguento azzurro che gli copriva il corpo, illuminata da Aureliano con una lampada. Solo quando lo voltarono bocconi si accorsero che aveva qualcosa in più del resto degli uomini e si curvarono per esaminarlo. Era una coda di maiale. Non si spaventarono. Aureliano e Amaranta Ursula non conoscevano il precedente familiare né si ricordavano delle paurose ammonizioni di Ursula, e la mammana li tranquillizzò definitivamente con la supposizione che quella coda inutile poteva essere tagliata quando il bambino avesse cambiato i denti. Poi non ebbero più occasione di pensare alla coda, perché Amaranta Ursula si stava dissanguando in una sorgente incontenibile. Cercarono di soccorrerla con applicazioni di ragnatele e compresse di cenere, ma era come soffocare una fontana con le mani. Nelle prime ore lei si sforzava di conservare il buon umore, afferrava la mano allo sconvolto Aureliano e lo supplicava di non preoccuparsi, perché la gente come lei non era fatta per morire controvoglia, e scoppiava a ridere davanti ai mezzi truculenti della mammana. Ma a mano che Aureliano perdeva la speranza, lei si faceva sempre meno visibile, come se la stessero cancellando dalla luce, finché si immerse nel sopore. Allo spuntare del lunedì portarono una donna che pregò vicino al suo letto orazioni di cauterio, infallibili per uomini e animali. Ma il sangue appassionato di Amaranta Ursula era insensibile a ogni artificio diverso dall'amore. Nel pomeriggio, dopo 24 ore di disperazione, seppero che era morta perché il flusso si esaurì senza aiuti e le si affilò il profilo e le lividure della faccia le si dissolsero in un'aurora di alabastro e tornò a sorridere. Aureliano non comprese fino a quel momento quanto voleva bene ai suoi amici, quanto gli mancavano e quanto avrebbe dato per essere con loro in quel momento. Mise il bambino nel cestino che sua madre gli aveva preparato, coprì la faccia al cadavere con una coperta e vagò, senza meta, per il villaggio deserto, cercando uno spiraglio di ritorno al passato. Bussò alla porta della farmacia, dove non era stato negli ultimi tempi, e quello che trovò fu un laboratorio di falegnameria. La vecchia che gli aprì la porta con una lampada in mano ebbe compassione del suo delirio e insistette che no, che lì non c'era mai stata una farmacia e che non aveva mai conosciuto una donna col collo sottile e gli occhi sonnolenti che si chiamasse Mercedes. Pianse con la fronte appoggiata alla porta dell'antica libreria del savio catalano, cosciente di star pagando i pianti ritardati di una morte che non aveva voluto piangere in tempo per non spezzare le malie dell'amore. Si scorticò i pugni contro le pareti di malta del Nigno d'Oro, chiamando Pilar Ternera, indifferente ai dischi aranciati che intersecavano il cielo e che tante volte aveva contemplato con una affascinazione puerile nelle notti di festa dal patio degli Aironi. Nell'ultima sala aperta dello smantellato rione di tolleranza, un complesso di fisarmoniche stava suonando le canzoni di Raffaele Scalona, il nipote del vescovo, erede dei segreti di Francisco e l'ombre. L'oste, che aveva un braccio secco come bruciacchiato per averlo levato contro sua madre, offrì ad Aureliano una bottiglia di acquavite. Aureliano gliene offrì un'altra. L'oste gli parlò della disgrazia del suo braccio. Aureliano gli parlò della disgrazia del suo cuore, secco e come bruciacchiato per averlo levato contro sua sorella. Finirono per piangere insieme. E Aureliano sentì per un momento che il dolore era finito, ma quando rimase di nuovo solo nell'ultima alba di Macondo, si mise a braccia aperte in mezzo alla piazza, disposto a svegliare il mondo intero e gridando con tutta l'anima: gli amici sono dei figli di puttana! Negromanta lo recuperò da una pozza di vomito e di lacrime. Lo portò nella sua stanza, gli fece bere una tazza di brodo. Credendo di poterlo consolare, cancellò con un colpo di tizzone gli innumerevoli amori che Aureliano le doveva ancora e rievocò volontariamente le proprie tristezze più solitarie per non lasciarlo solo nel pianto. Quando spuntò il giorno dopo un sonno torbido e breve, Aureliano riprese coscienza del suo mal di capo, aprì gli occhi e si ricordò del bambino. Non lo trovò nel cestino. Nel primo momento provò una deflagrazione di gioia, credendo che Amaranta Ursula si fosse svegliata dalla morte per occuparsi del bambino, ma il cadavere era un promontorio di pietre sotto la coperta. ricordandosi che quando era arrivato aveva trovato aperta la porta della stanza, Aureliano attraversò il corridoio, saturato dai sospiri mattutini dell'origano, e si affacciò nel portico dove c'erano ancora le mondiglie del parto, la pentola grande, le lenzuola insanguinate, i testi di cenere e l'ombelico ritorto del bambino in un panno aperto sul tavolo, vicino alle forbici e al cordoncino di seta. L'idea che la mammana fosse tornata a prendere il bambino nel corso della notte gli procurò una pausa di calma per pensare. Si lasciò andare nella sedia a dondolo, nella stessa in cui si era seduta Rebecca nella prima epoca della casa per dare lezioni di ricamo, e nella quale Amaranta giocava dama cinese col colonnello Gerineldo Marquez, e nella quale Amaranta Ursula cuciva il corredino del bambino. E in quel lampo di lucidità ebbe coscienza che era incapace di sopportare nell'animo il peso opprimente di tanto passato. Ferito dalle lance mortali delle nostalgie proprie e altrui, ammirò l'impavidità della ragnatela sui rosai morti, la perseveranza della zizzania, la pazienza dell'aria nella raggiante mattinata di febbraio. E allora vide il bambino. Era una carcassa gonfia e inaridita, che tutte le formiche del mondo stavano trascinando laboriosamente verso le loro tane lungo il sentiero di pietre del giardino. Aureliano non poté muoversi, non perché lo avesse paralizzato lo stupore, ma perché in quell'istante prodigioso gli si rivelarono le chiavi definitive di Melchiades, e vide l'epigrafe delle pergamene perfettamente ordinata nel tempo e nello spazio degli uomini. Il primo della stirpe è legato a un albero e l'ultimo se lo stanno mangiando le formiche. Aureliano non era mai stato così lucido in nessun atto della sua vita, come quando dimenticò i suoi morti e il dolore dei suoi morti e tornò a sbarrare le porte e le finestre con le crociere di Fernanda per non lasciarsi turbare da alcuna tentazione del mondo, perché allora sapeva che nelle pergamene di Melchiades era scritto il suo destino. Le trovò intatte tra le piante preistoriche e le pozze fumanti e gli insetti luminosi che avevano bandito dalla stanza ogni vestigio del passaggio degli uomini sulla terra, e non ebbe la serenità di portarle alla luce, ma in quel luogo stesso, in piedi, senza la minima difficoltà, come se fossero state scritte in spagnolo sotto lo splendore accecante del mezzogiorno, cominciò a decifrarle a voce alta. Era la storia della famiglia, scritta da Melchiades persino nei suoi particolari più triviali, con 100 anni di anticipo. L'aveva redatta in sanscrito, che era la sua lingua materna, e aveva cifrato i versi pari con la chiave privata dell'imperatore Augusto e quelli dispari con le chiavi militari lacedemoni. La protezione finale che Aureliano cominciava a intravedere quando si era lasciato confondere dall'amore di Amaranta Ursula si basava sul fatto che Melchiades non aveva ordinato i fatti nel tempo convenzionale degli uomini, ma che aveva concentrato un secolo di episodi quotidiani di modo che tutti coesistessero in un istante. Affascinato dalla scoperta, Aureliano lesse ad alta voce, senza salti, le encicliche cantate che lo stesso Melchiades aveva fatto ascoltare ad Arcadio e che erano in realtà le predizioni della sua esecuzione, e trovò annunziata la nascita della donna più bella del mondo, che stava salendo al cielo in corpo e anima, e conobbe l'origine di 2 gemelli postumi che rinunciavano a decifrare le pergamene non soltanto per incapacità e incostanza, ma perché i loro tentativi erano prematuri. A quel punto, impaziente di conoscere la propria origine, Aureliano passò oltre. Allora cominciò il vento, tiepido, incipiente, pieno